Ciao a tutti e bentornati a questa nuova puntata di G-Cookies. Al microfono da Torino c'è Francesco e diamo il bentornato, benvenuto, insomma il sempre presente Giuliano. Ciao Giuliano. Ciao Francesco, ciao a tutti quelli che ci ascoltano. Molto bene, oggi manca Mario e mancherà per qualche puntata per problemi di tempo, ma Mario sarà presente perché senza di lui noi non potremmo pubblicare, uscire, insomma lui c'è ma nei suoi ritagli di tempo che sua figlia gli permette di avere, quindi penso dalle 2 alle 4 del mattino, una roba del genere. Esatto. E noi registrare dalle 2 alle 4 del mattino non ce la facciamo e quindi ci siamo un attimo divisi i compiti, ma non temete, Mario tornerà. Allora, Mario è onnipresente. Assolutamente, secondo me Mario non vedo l'ora di ascoltare questa puntata. Puntata numero 27, stiamo mantenendo abbastanza il ritmo di una puntata al mese, cercheremo comunque di mantenerlo. Mi raccomando, divulgate il verbo, dite che G-Cookies è un podcast di nerd che possono ascoltare anche i non nerd, e se fanno un po' di fatica ci possono fare tutte le domande che vogliono, dico bene? Assolutamente. Perfetto. Siamo qui per questo. Molto molto bene. Allora, io direi di cominciare con l'argomento chiave di questa puntata. Oggi parliamo di un protocollo che è persino difficile da pronunciare, MQTT. Sembra un gioco di parole, direi. E a questo punto io passo la palla a chi ha studiato. Lo interrompo poi per una divagazione che magari può mettere le basi, se vi mancano queste basi, poi come al solito noi decidiamo di parlare di qualche cosa e poi divaghiamo su tutto quanto il resto possibile di tecnologia, giusto Giuliano? Minimo. Perfetto, quindi oggi parleremo quelle 6-7 ore, quindi sì. Mettetevi comodi, io sto per chiamare la protezione civile perché mi porti l'acqua. Allora, Giuliano, ti passo la palla e raccontaci cos'è questo protocollo MQTT, che in effetti sono curioso anche io di ascoltare, vai. Bene, allora, sostanzialmente il tutto è incentrato sulla comunicazione fra diversi dispositivi. Sicuramente avremo già, o qualcuno di noi avrà già fatto qualche esperimento riguardo la comunicazione fra due Arduino, per esempio. Abbiamo utilizzato qualcosa tipo i micro trasmettitori ricevitori a 433 MHz, oppure abbiamo anche utilizzato la rete, il TCP/IP eccetera, però probabilmente l'abbiamo fatto con dei sistemi, chiamiamoli proprietari, cioè qualcosa che ci siamo inventati. Diciamo che l'MQTT sta a fare una standardizzazione, cioè è un protocollo di comunicazione standard fra dispositivi. Qual è la differenza che c'è tra la comunicazione, diciamo, personalizzata, quella che noi possiamo realizzare a casa tramite la programmazione, e un protocollo? Il fatto che probabilmente, se volessimo, chissà, distribuire la nostra creazione ad altri, gli altri potrebbero integrare questa nostra creazione nel loro sistema IoT che utilizza appunto il protocollo MQTT. Diciamo scusa se ti interrompo, lo standard ci aiuta a diffondere tutto quello che viene fatto. Normalmente però c'è qualcuno che lo standard non lo usa appunto per far sì che non si integri. Esatto. No, ma molte società hanno fatto una roba diversa. Allora, noi che smanettiamo su queste cose, che non dobbiamo farci del business sopra, secondo me è la cosa bella della parte dell'open source, ognuno ne fa un pezzetto, poi qualcun altro copia il pezzetto di chi ha cominciato, lo migliora, eccetera. Ma io mi metto nei panni di una società che deve fare fatturato, tiene per sé la tecnologia e, per esempio, fa come ha fatto Philips, crea le API. Tu sì, parli, certo, con le API, ma non sai qual è la tecnologia che c'è sotto. Giusto? Ma lì comunque ci sono, sì, assolutamente, però ci sono i pro e i contro. Non so se oggi come oggi sia meglio avere pochi prodotti costosi di cui io detengo tutto quanto lo scibile e quindi se vuoi devi pagare, oppure se sia meglio vendere più prodotti, magari guadagnandoci di meno, però col fatto che chi vuole se li possa personalizzare a piacere. È un concetto che ho visto da molti produttori di, diciamo, gadget, di quelli che abbiamo acquistato dai soliti amici dietro l'angolo, e che stanno vendendo parecchio, soprattutto ovviamente nella cerchia di chi come noi queste cose le manipola, eccetera. Però è anche vero che una volta manipolata poi la si può anche rimettere da vendere, ovviamente personalizzata, eccetera, eccetera. Diciamo che ci sono i pro e i contro sulla standardizzazione della comunicazione, piuttosto che su quella della comunicazione proprietaria. Probabilmente la comunicazione proprietaria ha un qualcosa in più rispetto alla sicurezza. Ecco, forse è più sicura perché, non avendo tutte le chiavi d'accesso, probabilmente è resa più sicura proprio da questo, insomma, dal fatto che non c'hai tutte le chiavi. Stiamo per entrare in un ginepraio pericolosissimo, perché sì, secondo me non è vero. Attenzione. No, il fatto è questo. Il protocollo è proprietario, non lo conosce nessuno, e chi ci lavora sono X persone. Nell'attimo in cui esce una vulnerabilità, o tu la comunichi al proprietario che poi ci mette la pezza sopra, oppure tu te la tieni per te e la sfrutti, come in qualunque cosa, i sistemi operativi, ed è quello per cui l'internet delle cose viene chiamato internet of shit. Ci sono un sacco di bachi. L'open ha il vantaggio che tutti quanti la conoscono. Guarda l'SSL, l'Heartbleed che è venuto fuori 2 anni fa, 1 anno fa, certo, non mi ricordo più. Non se ne sono accorti quelli che ci stavano lavorando, ma altri. Ho detto, attenzione, guardate che c'è questo bacco. Secondo me sono due facce della stessa medaglia che hanno alcuni pro e alcuni contro. Secondo me il pro più pro di tutti è che gli standard, a qualunque livello, anche la corrente che c'è in casa, facilitano la diffusione delle cose. Tu pensa, ora abbiamo dei protocolli standardissimi nel mondo, l'HTTP, che usano tutti. E abbiamo dei protocolli che non sono standard, internet delle cose. Se tu compri Nest non parla con le cose di Apple. Ah sì, sì, certo. È questo che secondo me fa male al mercato. Nel senso, se tutti si mettessero d'accordo e tutti parlassero con gli stessi protocolli, a parte che nessuno perderebbe fette di mercato, perché nessuno ci perde che l'HTTP sia pubblico per tutti e tutti i browser e tutti i PC usino l'HTTP. Tanto se io voglio la lampadina bianca senza simboli piuttosto che quella tutta multicolor con la marchia, col marchio del produttore tutto intorno, è una scelta mia. Cioè, ogni produttore si piazza sul mercato con le sue differenze. Invece, tenendosi i protocolli così, tu una volta che entri nel giro di un produttore non ne esci più. Ed è per quello che io cerco di non entrare nel giro di nessuno, ma non si può fare. Esatto. E anche, diciamo, scottati da Pebble e compagnia cantante. No, ma da Pebble, dal sistema di gestione della casa che Google si è comprata 2 anni fa e che ha chiuso scientemente un giorno dopo che ha venduto l'ultimo pezzo. Sì, cioè, sì, sì. Le storie sono assolutamente tante e e troppe. Lo standard, secondo me, potrebbe dare una mano. Tu compri le Philips Hue hanno un protocollo standard, le usi con Apple, poi Apple fallisce, resta solo più Windows ce la posso fare, Windows Mobile. Non è vero, perché Windows Mobile è già morto. Esatto. E tu usi le tue lampade Hue con il tuo telefono Microsoft. Sarebbe tutto troppo bello. Scusa, ti ho interrotto, ho fatto la quarta divagazione nei primi 10 minuti di podcast, non lo faccio più. No, no, ma guarda che intanto non sarà l'ultima, e quindi è inutile chiedere scusa. No, però guarda, sono completamente d'accordo. Tra l'altro c'è anche da dire questo: se tu sei il produttore che fa un bellissimo termostato, ma fai anche dei sensori che fanno schifo, cioè io mi metto il problema, ma devo prendermi il bellissimo termometro e poi avere il problema dei sensori? Cioè, posso prendermi il tuo bellissimo termometro, i bellissimi sensori di un altro che fa i bellissimi sensori e il termometro che fa schifio, e unisco le due cose per avere quello che mi occorre. Quindi sul protocolli di comunicazione standard dovrebbero andarci tutti. Poi ovviamente, sai, noi non siamo Google sicuramente, altrimenti non saremmo qui. E lo penso anche io, giusto. Però penso anche che a quest'ora di sabato mattina non saremmo a registrare un podcast, ma a lavorare su qualche progetto sicuro. Beh, probabilmente, però insomma, ma magari, anche di notte, sai, anche domenica, anche Natale, anche e anche quando Pasqua. Vuoi mi basterebbe qualche azione di Google, insomma, qualche centinaio, dai. Sì, ma se te le regalano non male. Sì, appunto. Va bene, allora ti ho interrotto già troppe volte. Torniamo su MQTT. Torniamoci. Allora, quindi il discorso qual è? Che dicevamo, le comunicazioni che di cui parlavamo prima erano comunicazioni quindi punto a punto, cioè tra due singoli device. Il discorso dell'MQTT invece è quello di far parlare all'unisono più dispositivi, nel senso, per poter fare questo, tra la comunicazione tra una macchina e l'altra, noi mettiamo al centro un come possiamo dirlo, un coso. Un coso è bellissimo. Un coso, cioè mettiamo al centro un pezzo di software, diciamo così, messo su una macchina, che fa da tramite fra i vari dispositivi. Il protocollo MQTT è basato su un protocollo che si chiama Publish and Subscribe, cioè nella comunicazione tradizionale c'è, tornando all'esempio dei termostati per dire, noi possiamo avere da una parte il nostro sensore che comunica direttamente la temperatura con il termostato, ok? Il discorso qual è? Che durante questa comunicazione cioè la comunicazione è fine a se stessa, in pratica non, se il termostato, ovviamente se il termostato fa anche tante altre cose, ma prendiamo un termostato che fa il termostato. Il termostato cosa fa? Riceve il dato e a quel punto lì probabilmente fa partire la caldaia, fa partire il condizionatore, eccetera, eccetera. Il dato che è del sensore si perde dentro la funzione del termostato. Ok? Come si può dire, la caratteristica invece del broker è quella di avere la possibilità di ricevere da diversi, teniamo l'esempio dei sensori di temperatura, quindi riceve da diversi sensori di temperatura e può rimandare i dati sia al termostato ma anche ad altri device. Una cosa che mi viene in mente è per esempio poter ricevere la temperatura della mia stanza sul telefono, per esempio. Quindi diciamo che fa, passami il termine tecnico, di rete, fa da gateway, cioè raccoglie tutte le informazioni e le può poi distribuire in altri modi. Guarda, allora il concetto di gateway nella comunicazione IoT è un altro, nel senso che ci sono degli altri protocolli che proprio hanno dei gateway e dei router. Non so se ti piace questa parola. Tu sei simpaticissimo, ma secondo me continuano a chiamarsi router, ma non importa. Sì, anch'io continuerò a chiamarli router, nonostante... No, perché se li chiami router, poi non facciamo più podcast. Mi dispiace. Ti vergogni talmente che abortiamo qui. Magari si usa, ma non si può sentire per me. No, io continuerò a chiamarli router. Comunque ci sono anche degli altri protocolli un pochino più complessi dell'MQTT, per esempio la MQP, dove ci sono degli altri attori che sono per esempio i router o i gateway, che svolgono diverse funzioni oltre ai broker per garantire la comunicazione più sicura, per esempio, oppure per il router, per esempio, che cosa fa? Tu gli mandi un dato, il router praticamente ti consentirebbe anche di non dover aprire delle porte sulla tua rete per ricevere le informazioni, cioè c'è tutta altri discorsi che magari faremo in un'altra puntata, perché sono un pochino più complessi. Faremo una puntata dedicata a come funzionano le reti. Anzi, se non sapete come funzionano le reti, ascoltate una puntata di Pillole di Bit che ho fatto un po' di tempo fa, dove si parla appunto di reti. Esatto. Mi sono fatto pubblicità occulta, anzi poco occulta. Allora, quindi torniamo alla comunicazione fra il sensore e il termostato. Quindi in pratica, per quello che dicevamo, cioè per il protocollo publish subscribe, alla fine dei conti come funziona? Allora, il sensore pubblica su chiamiamolo canale per il momento, il dato, ok? Diciamo che dentro questo canale in ascolto ci sono tot device, quindi il sensore manda al broker il dato, il broker lo pubblica sul canale e a quel punto i device che sono su questo canale lo raccolgono. Poi ovviamente, una volta raccolto, possono a loro volta pubblicare qualcosa sul canale oppure no. Questo è un altro. Quindi io, sensore, dico: in camera da letto ci sono 21 gradi. Esatto. Ma non lo sto dicendo a te, lo sto dicendo sulla mia rete, e chi c'è che ascolta, che gli interessa che io stia dicendo una temperatura, lo prende e se lo registra. Ho capito? Esatto. Bene? Perfetto. Esatto. Guarda, allora, perché io faccio l'esempio della chat? Perché, per esempio, la chat Messenger di Facebook, ecco, Messenger di Facebook è basato per esempio sul protocollo MQTT, cioè io non comunico direttamente con te che sei dall'altra parte, ma siccome comunico con il client di Facebook, io comunico quello che voglio scrivere a Facebook. Facebook lo scrive su quel canale dove tu sei in ascolto, perché probabilmente al primo al primo messaggio Facebook ti sottoscrive in automatico al canale, sapendo che io sto mandando un messaggio a te. A parte questione di autorizzazioni, sei mio amico, non sei mio amico, ma questo è tutto un altro discorso. Ma è molto, io lo vedo, cioè l'MQTT lo vedo molto come un molto simile ad una chat, dove le persone possono scrivere qualcosa, chi è interessato la legge. Mi viene in mente il nostro canale di Telegram, così, giusto per fare anche pubblicità a queste cose qui. Ah, perfetto. Solo che mi viene un dubbio, ora spero di non metterti troppo in difficoltà. Quindi io faccio broadcast alla fin fine? Beh, aspetta, broadcast cioè tu lo fai solo su quel canale lì. Ok, ma se io lo appoggio su una rete qualunque, parleremo poi dopo dove che si appoggia. Normalmente, se io voglio comunicare a qualcuno qualche cosa, prima lo contatto, gli dico: senti, ti voglio comunicare qualche cosa, e glielo comunico. Mentre allora, se sì, per esempio io faccio un esempio banale, accendo il PC, il PC va sulla rete e manda un pacchetto a tutti: ehi, ho bisogno di un indirizzo, dov'è il DHCP? E questo è broadcast, lo ha mandato a tutti. Certo, allora il discorso qual è? Che il tipo di protocollo che si chiama Publish and Subscribe, adesso lo diciamo che lo rendiamo un pochino più chiaro. Allora, il broker ha la possibilità di creare dei, diciamo, chiamiamoli canali che si chiamano topic in MQTT, che sarebbe un similare, cioè come se dicessimo questo argomento, ecco, il broker noi possiamo settare per creare un certo argomento, cioè quello che sarebbe un certo canale, ok? Quello che quindi era il canale una volta in RC. Facciamo le cose facili, il broker, dico, tu ascolti la temperatura, punto. Giusto? Beh, diciamo, no, aspetta. Oppure sono diciamo sceso che già troppo nel dettaglio. No, no, allora noi al broker diciamo: creami questa stanza, ok? Ok. Perfetto. Al sensore diciamo: senti sensore, tu devi pubblicare le tue informazioni in questa stanza. Ok. Cioè, in questo topic, su questo topic. Chi vuole ricevere le informazioni di questo topic, cioè di questo argomento, si sottoscrive alla ricezione di questo argomento. Tornando sempre al discorso delle chat e di Telegram, io entro, allora, su Telegram creo la stanza gcookies, ok? Sì, l'amministratore okay, che è la stanza. Chi vuol ricevere informazioni o scrivere dentro la stanza di gcookies come si può dire, sottoscrive, si iscrive a quella stanza. Da quel momento chi è iscritto in quella stanza, Telegram ha una sola iscrizione, cioè nel senso io posso con una sola iscrizione sia trasmettere che ricevere i messaggi. Con l'MQTT si può fare la stessa cosa, però con due comandi diversi, diciamo così, ok? Uno è il comando per sottoscrivere e l'altro invece è il comando per pubblicare. Ora qual è il vantaggio di avere questo tipo di funzionamento della comunicazione? Allora, intanto è c'è un discorso di disaccoppiamento della comunicazione. Allora, per farla breve, chi genera il dato, cioè il sensore, non deve essere direttamente connesso con chi poi lo deve utilizzare, ok? Quindi è una questione, cioè c'ha il sensore da una parte e il termostato all'altra. Poi c'è da dire che non è vero che l'informazione deve essere trasmessa direttamente al termostato. Possiamo avere anche dei sensori che trasmettono ogni secondo la temperatura, ma è pur vero che regolare la temperatura ogni secondo probabilmente non interessa molto a nessuno. Allora può esserci un termostato che ogni 5 minuti va a vedere su quel canale che qual è l'ultima temperatura che è stata pubblicata. Quindi possiamo avere anche questo disaccoppiamento temporale, cioè quello scrive in un momento, ma chi leggerà in un secondo momento. Sempre un parallelissima con una chat. Poi c'è una questione che riguarda il collegamento fra i due dispositivi, cioè in effetti c'è un discorso che non c'è, cioè è un protocollo asincrono, perché chi produce il dato non deve per forza essere sicuro che chi lo riceve lo riceva nello stesso istante, ok? Tutto quanto questo sistema, quindi, è semplice capire che è molto semplice usarlo per i dispositivi IoT, cioè dove in effetti hai dispositivi, come possiamo dire, poco intelligenti, cioè il sensore di temperatura non è che abbia tutta quanta questa intelligenza all'interno, per cui hai dei dispositivi un pochino più ignoranti che pubblicano i dati, mentre poi hai dei dispositivi più intelligenti che questi dati li acquisiscono e li elaborano, e elaborandoli fanno altre funzioni. Tutto il sistema è anche fatto per trasmettere pochi dati, perché comunque i dispositivi funzionano a batteria, per cui abbiamo sempre problemi di risparmio energetico, cioè il disaccoppiamento che abbiamo è fatto in modo per cui il sensore trasmette la temperatura in un millisecondo, si spegne, ritorna in risparmio energetico e quindi consuma meno batterie, cosa che probabilmente con altri protocolli la trasmissione dura di più, perché c'è più da trasmettere, cioè per il discorso del perché usare anche questo protocollo quando ci sono trasmissioni, per esempio, che devono utilizzare non il wifi o la rete di casa nostra, ma per esempio la rete cellulare, che probabilmente se trasmette pochi dati non ci costa un patrimonio. Ok, quindi diciamo che tiro un attimo le somme di quello che mi pare di aver recepito da tutto questo. Allora, dispositivo piccolo che consuma poco, anzi che deve consumare poco in termini di energia e di banda, quindi questo protocollo permette di consumare pochissimi dati rispetto, per esempio, all'HTTP che uso io a casa per far comunicare i sensori con la mia centralina, giusto? Mm-hmm. Certo. Secondo step, io parlo con il broker, qualcun altro può interrogare il broker sui dati che il broker ha. Per esempio, il sensore dice al broker la temperatura che c'è in ogni singola stanza. Esatto. Il termostato accende o spegne di conseguenza il riscaldamento, e magari le tapparelle elettriche abbassano se fa troppo caldo nelle due stanze esposte al sole. Certo. Giusto? Assolutamente. Il discorso qual è? Che per esempio, allora, a proposito del termostato, per cui io ho diversi sensori nelle stanze, può anche stare in questo. Io posso sottoscrivere un insieme di topic da cui leggere le informazioni, tipo leggo le temperature di tutte le stanze, dopodiché ne faccio una media e decido se accendere il riscaldamento. Ok, perfetto, sì, quindi, che mi sembra furbo. In teoria potrei anche pensare di gestire delle elettrovalvole sui termosifoni e accendo solo dove fa freddo. Esatto, perché comunque posso tenere, come si può dire, separati i vari topic, cioè stanza 1, stanza 2, stanza 3, eccetera, per questioni anche di semplicità poi nell'organizzazione, però posso con un certo tipo di comando leggerli tutti insieme, cioè sottoscriverli uno per volta, però comunque con un certo comando li puoi leggere tutti quanti, cioè puoi leggere tutti i messaggi tutti quanti contemporaneamente di tutti i topic contemporaneamente, nel senso che non devi entrare per forza, cioè non devi dare tutti i comandi per entrare ogni volta in ogni singolo topic per leggerne il contenuto. Questo perché, allora, il topic funziona più o meno come un albero delle directory dei sistemi che usiamo correntemente, cioè di Windows o di Linux, eccetera. Cioè c'è una radice, dentro questa radice posso creare un primo come si può dire, una prima separazione del tipo radice, casa, sotto casa posso metterci altri vari topic che riguardano le varie stanze. Se io volessi leggere tutti i topic di casa mia, praticamente potrei leggerli semplicemente dando come percorso slash casa slash in questo caso è slash, cioè il cancelletto. A quel punto lì leggerei tutto quanto quello che sta sotto casa. Ah, quindi è come se fosse un albero, e quindi interrogo, esatto, io il dispatcher su quello che mi interessa. Esatto. Il dispatcher, il broker, scusa. Il broker, sì, sì. Parliamo con i termini giusti. Lui raccoglie tutto, fa da deposito, io li leggo solo quello che mi interessa. Tra l'altro aggiungerei gestito già dal protocollo, quindi non devo diventare scemo a capire come fare i filtri, le query di qua di là. Esatto, perché in effetti si usano delle, come si può dire, noi diremo delle wild card, cioè quelli che è l'asterisco punto asterisco per chi ha presente le MS-DOS, no? Cioè tutto quello che c'è. Parliamo con gente troppo vecchia però, cioè se parliamo di MS-DOS... Hai ragione, aspetta, non so come, cioè, anzi in effetti, perché quando tu clicchi sulla cartella di Windows ti viene visualizzata tutta la cartella, però io sono un po' datato. No, ma sai cos'è che, sempre sulle divagazioni solite nostre, ormai l'asterisco punto asterisco non si usa praticamente quasi più neanche nel prompt dei comandi. Io sono anni che non uso un asterisco punto asterisco, perché metti solo l'asterisco e copre tutto. Ah beh, questo è vero, però sai, le abitudini sono dure a morire. Assolutamente. Come sì. Per esempio, io mai faccio una ricerca tramite la ricerca di Windows. Se mi serve veramente trovare un file, lo cerco con dir bla bla bla barra s. Noi siamo vecchi, se ci fosse Mario ci bacchetterebbe, perché bisogna cercare tutto quanto solo sul prompt, esattamente come fai tu, e invece io cerco sul Mac, cerco con Alfred, che funziona benissimo. Ah, ecco, guarda, con me di Mac puoi parlare tranquillamente, tanto non c'è problema, io non conosco una ceppa di Mac, quindi. Ah, ecco, perfetto, allora faremo in modo che con le donazioni del podcast ti si possa comprare un MacBook. Ma dobbiamo... Ti vedo interessatissimo, ma vabbè, non importa, dai. Aspetta, allora vorrei ricordarvi che abbiamo dei diversi bla bla bla di... facciamo la pubblicità dopo. Allora, vediamo un attimino. Il discorso quindi di come i messaggi vengono pubblicati e letti dai topic segue proprio quello che è un albero di qualsiasi tipo noi vogliamo, cioè con una radice e poi delle ramificazioni sui vari argomenti. Sta a noi ovviamente organizzare come meglio crediamo l'albero che è in questione. Una cosa importante è che i topic sono case sensitive, per cui se ci mettiamo una maiuscola dobbiamo ricordarci che ci abbiamo messo una maiuscola, altrimenti nisba, non c'è niente da fare, non riusciremo mai a leggere il contenuto di quel topic. È come Linux, che tipicamente è il problema che crea del disagio a chi passa da Windows a Linux, perché Windows è case insensitive e Linux è molto case sensitive. Sì, lo so. Ecco, dal tuo ridere mi sa che ci sei già passato. No, ma ci passo ogni volta che tento di utilizzare Linux, non c'è niente da fare, è così, è perché proprio le abitudini sono dure a morire, per quello infatti quando io utilizzo Linux tutto minuscolo, basta, così almeno non ci... se devo salvare un file tutto minuscolo, almeno così non ho problemi poi di ritrovarlo. Cosa vogliamo dirci? Allora, io aggiungerei il fatto che l'MQTT si basa comunque su TCP/IP, se non mi sbaglio. Certo, sì, sì. Di conseguenza ogni dispositivo ha il suo indirizzo IP e tutto questo si basa su questo protocollo, esattamente come fa l'HTTP, come fa l'FTP, cioè è un protocollo di livello, oddio, aspetta un attimo, cos'è il livello 4? Ah, non mi ricordo mai. Direi che è di livello 4, sì. Mm-hmm. E quindi significa che tutto quello che voi avete già a casa come rete, quindi la rete basata su Wi-Fi, la rete basata su cavo Ethernet, non so sul Bluetooth lo ignoro, oppure tutto quello che è basato su connettività mobile, GPRS, 2G, 3G, 4G, eccetera, lui si appoggia sopra. Di conseguenza bisogna prima avere questa rete. La cosa facile è che tutti hanno già questa rete, quindi certo. Non bisogna mettere antenne particolari, non bisogna mettere dispositivi di rete aggiuntivi, passare nuovi cavi, eccetera. È tutto basato su questa cosa, che secondo me è un plus rispetto per esempio alla comunicazione a 433 MHz. Ah beh, sicuramente, ma poi a parte quello, ma c'è una questione anche di affidabilità della trasmissione, insomma ci sono tante cose per cui TCP/IP sicuramente ci viene incontro. Ah beh, certo, sì, ha un overhead suo, ma l'MQTT ha un overhead di trasmissione dati molto molto basso, quindi non è per esempio come l'HTTP. Io uso l'HTTP e il protocollo HTTP sulla comunicazione, per mandare un pacchetto molto piccolo deve mandare molti pacchetti aggiuntivi di sincronia. Certo. L'MQTT questa cosa non ce l'ha ed è una cosa molto molto buona. Guarda, assolutamente, ma mi veniva in mente che per l'HTTP tutto questo anche traffico di pacchetti di header pesanti, cioè relativamente pesanti, quando invece leader dell'MQTT sono 2 byte. Ecco, facciamo due conti abbastanza facili. Allora, se noi abbiamo una SIM, per esempio TIM ha una SIM dedicata all'IoT che ha, mi pare, 10 mega al mese, costa poco e ha 10 mega. Se noi ogni lettura è un numero, facciamo che è un numero con decimali, bla bla, che occupa 2 byte, io trasmetto 2 byte di sincronia e 2 byte di lettura. Ne uso 4. Se io devo fare questo con l'HTTP, adesso io non ho studiato, non sono preparato, ma se non mi sbaglio, per fare una chiamata in HTTP non sono 2 byte, perché già solo la stringa di connessione, il certo. pacchetto per dire al server web guarda che ti sto per scrivere, il pacchetto di ritorno sì, ok, scrivimi pure, bla bla bla, secondo me per mandare 2 byte di lettura noi consumiamo un K, mezzo K. Insomma, sicuramente non poco. Ecco, 10 mega al mese, facendo così una lettura ogni 10 minuti, magari non bastano. Tenendo conto inoltre che tutto questo handshake di pacchetti consuma dell'energia. Magari le batterie guadagnano il 120% di durata extra, perché per fare tutto questo ci va molto molto poco, sia tempo che pacchetti mandati. Secondo esatto. me è questo il uno dei plus più grandi. E poi davvero quello che dicevi tu all'inizio è uno standard, tra l'altro è standardizzato da IBM, quindi non è uno standard del cavolo, è roba di un certo livello, e se si usa si integra con un sacco di altra roba al mondo. Assolutamente sì, infatti tra l'altro credo che tutte le specifiche siano open source, per cui volendo ci si può anche fare, come già ci sono, il proprio broker per i messaggi, quindi insomma è tutto molto interessante, come diceva un noto cantante. sai qual è il problema grosso? È che non facendolo per lavoro è tutto interessante, vuoi provarlo tutto, ma poi alla fine non c'hai una mazza di tempo. È sempre così, sempre. Allora, siccome non ci abbiamo una mazza di tempo per farci il broker, i nostri broker, allora io ne ho provato un paio, di cui uno è forse, credo sia uno di quelli più famosi, che si chiama Moschitto, che c'è, udite udite, per Linux e anche per Windows, quindi già questo, con questo gioisco che non ci ho dovuto sbattere la testa troppo. È una cosa molto semplice, un attimino di attenzione durante l'installazione, perché ci sono da portare, spostare delle librerie. Non so se sia così, anche così, non credo che in Linux sia così. Là, Linux sono più fortunati questi. Chi usa Linux è più fortunato. Ti sento con un po' di sarcasmo, ma non importa. Assolutamente, ma tu lo sai che questo sarà l'anno di Linux sui desktop, giusto? E certo, questo come gli ultimi 15 anni. Esatto. Dai, non scendiamo in facci di flame. Su. No, non lo so, mi sa, forse lo diciamo ogni puntata, non so perché. Ma forse ogni due. Allora, io dai, lo dico ogni puntata, ma anche perché lo provo ogni puntata, per cui è così. Noi quindi dovremmo far leggere agli ascoltatori quello che ci diciamo noi nella chat dove si discute del podcast. alla fine quello che Giuliano dice su Linux non si può più pronunciare. però mi attengo a fatti di vita realmente vissuta. Sì, tu provi, bestemmi, cadono, esatto, giù santi, madonne, eccetera, e però poi riesci. Sì, ma cavoli, ci devo sbattere la testa. Ma guarda, io lo ammetto, è perché Linux, sono ignorante su Linux, non è che ci sia molto da giostrare. Me la cavo giusto perché vengo da quello che è l'MS-DOS, quindi quando si usava ancora la tastiera. Ma Linux ha alcuni concetti che con Windows è proprio zero, sì, neanche sì, un sì, po'. Sì. Assolutamente, guarda, già tutte le questioni sulla sicurezza dei file, quelle per a me proprio non mi sono neanche ancora entrate in testa, quindi la lasciamo perdere. Però detto questo, una cosa, ma giusto un accenno per quello che riguarda la sicurezza di questo del protocollo di MQTT. Se lo vediamo vedere così, sullo standard, cioè sul prendiamolo così come viene, in effetti se non ci mettiamo una codifica nel mezzo tipo l'SSL o cose del genere, i pacchetti viaggiano in chiaro, per cui potremmo, poi io dico sempre a chi interesserà sapere la temperatura della stanza di casa mia, questo è un altro discorso, eppure qualcuno mi ha detto c'è a chi interessa. Io ancora sto aspettando che qualcuno mi dica dammi i dati della temperatura di casa tua che ti paghiamo, io subito glieli fornirei, perché intanto meno di così non mi potrebbe interessare. Quindi il discorso qual è? Che se avessimo qualcuno interessato a ricevere i nostri dati, si potrebbe utilizzare uno di quegli attacchi che si chiama Man in the Middle e ascoltare quelli che sono i pacchetti che viaggiano sulla rete. Si può, io non ci ho provato, penso che si possa applicare l'SSL, perché Moschitto ha in comune delle librerie SSL, quindi penso che la crittografia si possa applicare, però non ci ho mai provato. E tra l'altro credo, correggimi se sbaglio Francesco, a discapito della quantità di traffico che poi viene utilizzata, cioè non sono più i 2-3 byte che dicevamo prima, ma credo che siano molti di più a quel punto. Ma più che allora sì, c'è dell'overhead di traffico, ma c'è dell'overhead di calcolo. Tu devi codificare e decodificare il messaggio, e quindi ci va dell'energia sul processore che faccia questo mestiere, perché la codifica sono calcoli matematici che non sembra, ma sono anche un po' complessi. Mi immagino che noi non riusciamo a fare velocemente, ma quelli che fanno i CryptoLocker sono riusciti a trovare il metodo per farli velocissimamente. Ma tanto il CryptoLocker usa la CPU, quindi gliene frega poco della... Sì. Del consumo. No, e aggiungerei allora innanzitutto torno facendo una battuta sul fatto a chi interessano i miei dati della temperatura, tendenzialmente a nessuno, però se tu li metti insieme ad altri dati, ti faccio un esempio banale, in Sardegna non so quanto freddo faccia, ma se a casa mia uno leggesse la temperatura tutti i giorni e vedesse che per 4 giorni di fila non è a 20 gradi ma è a 16, viene e sa che io non sono a casa. Okay. Questo è un esempio. È ovvio che non ci sono le multinazionali delle imprese del gas che vogliono che vogliono sapere quanta temperatura tu hai in casa, perché sanno che la tua casa è di classe energetica bassa, quindi se loro vengono a venderti il gas fanno più fatturato. Non penso. Infatti. Però comunque diciamo che la riservatezza del dato secondo me è importante comunque. Dipende poi da qual è il risultato. Su MQTT non passo il mio numero della carta di credito, per esempio. Ah no? Ah, peccato, allora non ti ascolto. Bravissimo, fatti i fatti tuoi. No, è sempre... allora, il fatto di generare tanti dati noi fa sì che chi legge questi dati e chi ha la capacità di analizzarli, perché finché leggono il dato di una temperatura nessuno ci fa niente, ma quando sull'arco dell'anno, sull'arco dei 10 anni si leggono tanti dati della stessa persona, non solo la temperatura, ma se tu cominci a mettere le tapparelle automatiche, la tenda del balcone automatica, l'apertura delle singole porte, si comincia a fare una profilazione di quello che tu fai, che magari non è importante per te, ma che magari gli altri potrebbero usare per fare business. Banalmente sono dati tuoi che gli altri usano gratis. Sì, no. È la nosa storia di Facebook. Facebook è gratis, sì. Anche sti cazzi, Facebook non è gratis. Tu stai pagando Facebook dandogli in pasto quello che pensi, le foto che fai, dove sei, dove vai, cosa fai, e Facebook che ne fa? Roba gravissima, ti fornisce della pubblicità che secondo loro è giusta per te. Per esempio, ora sono davanti a Facebook e Facebook ha sbagliato totalmente la pubblicità, perché sta cercando di vendermi scarpe eleganti. Io non avevo scarpe eleganti neanche al matrimonio. Ecco. Al mio matrimonio. Di conseguenza, più dati hanno, cioè più informazioni hanno sulla tua persona, più loro riescono a fare in modo di proporti la pubblicità giusta, che a me fa anche piacere. Cioè, se tu al posto di propormi le scarpe mi proponi quello che sta scritto due post più sotto, il sito dell'elettronica, e caspita, ma io vado. Sì, certo. Ma... È un'altra divagazione, ti chiedo scusa, ma secondo me ci stava bene sul fatto dei dati che la gente legge. Dato ha un certo valore, darglielo gratis non va bene, secondo me. Poi ovviamente ti tornano delle cose comode. Tu, se compri Nest, e io seriamente ci sto pensando, dai i dati della tua casa, anche della tua presenza, perché Nest verifica chi c'è in casa, a Google, e Google questi dati li usa per farci business. Non è che Google li usa e li rivende alle bande di ladri che girano per il mio quartiere e dice: uè, guarda che ha messo in modalità risparmio per una settimana, quindi hai una settimana di tempo per intervenire. Però Google queste informazioni le usa, Netatmo pure, sta tutto quanto scritto in quei termini di licenza di 42 pagine che nessuno legge. Sì, ma sempre. di questa storia dei dati eccetera ci sarebbe da, per esempio, io sono uno di quelli che il fatto che Google usi i miei dati però mi dia un mille servizi gratis lo sopporto tranquillamente, ma a me piace anche che Google mi proponga le pubblicità giuste, cioè se Google si accorge che io cerco sempre roba di elettronica e poi nei suoi annunci mi piazza che caspita ne so, delle maglie di lana, sono soldi che butta via, perché magari io una maglia di lana me la sono comprata, ma non sono uno che ci tiene tanto ad averne 60 da cambiarne una al giorno. Ma magari se tu mi proponi, guarda, c'è un'offerta di questo componente qui solo per oggi, ma 50% dei casi si porta a casa il click e l'acquisto. Certo, certo. Sì, sono e d'accordo. Quindi questa cosa serve. Se i supermercati mi profilassero, c'era qualcuno che diceva, c'è Valentina che me lo dice sempre, c'era qualcuno che diceva, profilatemi tutto. Se tu mi dai il volantino basato su quello che sai di me, Madonna, ma io vengo a comprare da te sempre. Sì, beh. Perché se tu mi fai il volantino generico, faccio lo sconto sul latte UHT, che io non compro perché mi fa schifo. Per me è inutile. Ma se tu mi fai lo sconto sul parmigiano stagionato 30 mesi, che tu sai che io ne compro uno ogni due mesi, quando c'è lo sconto, tu sai che io vengo e ne compro quattro. Certo, ma questo potrebbero già farlo, perché con la storia delle tessere che ti fanno fare come le Fidelity Card, come le chiamano. Un giorno ti racconterò come funziona la raccolta punti nella grande distribuzione, ma vis-à-vis. Poi facciamo ci facciamo quattro ghignate. Ho qualche ricordo della cosa, ma non me ne occupo da un decennio. No, cioè le tessere Fidelity sono un potere enorme in mano ai supermercati, che però secondo me non usano nel modo corretto. Esatto, sì, mi fa. Questo è il riassunto. Il succo, certo. Allora, torniamo però tipo a sei divagazioni fa e torniamo sul nostro discorso dell'MQTT. In pratica, adesso io ti faccio delle domande cattive, vediamo se mi sai rispondere. Allora, abbiamo capito perché potrebbe essere utile che io usi l'MQTT al posto dell'HTTP. Traffico di dati, certamente consumo di banda e di energia. Soprattutto... Allora, a casa mia non mi interessa se devo consumare 40 byte piuttosto che 4. Certo. Ma se io avessi il sensore di temperatura in garage o nella casa in montagna dove non ho la ADSL ma c'è la SIM, lì sì che mi interessa. Esatto, esatto. Perfetto. E questo è la cosa più importante. Domanda. È facile da implementare su ogni dispositivo? Ah, lì dipende quanto sei pratico tu nella programmazione. Nel senso, no, più che nella programmazione, perché per me è molto facile attaccare un display 16x2 ad Arduino, ma perché c'è qualcuno che ci ha sviluppato delle librerie. Cioè, se io dovessi andare a fare le chiamate hardware, non saprei da dove cominciare. Certo. Per esempio, su Arduino e su SP ci sono già delle librerie che contemplano questa cosa qua? Mille. Perfetto. Quindi sì, diventa facile. Cioè, io mi compro l'ESP e al posto di far comunicare l'ESP con il Raspberry via HTTP, la faccio con MQTT. Esatto, e lì c'è proprio librerie, ce ne sono, a parte per ESP, per Arduino ci sono, ma ci sono ovviamente anche per quello che riguarda altri dispositivi. Ma mi viene in mente che comunque ci sono spaccate di librerie per Python, per esempio, quindi volendo anche sull'ESP puoi utilizzare MicroPython più la libreria per l'MQTT e utilizzare quella. Cioè ci sono alternative per l'utilizzo dell'MQTT sia sull'ESP che... Ma a parte che noi adesso parliamo sempre di ESP e di Arduino, ma probabilmente anche per altre piattaforme. Tipo mi vengono in mente gli STM, Microelectronics, che adesso non mi ricordo come si chiamano, cioè, fa quei processori che adesso non mi vengono in mente, però che ovviamente non utilizzano le librerie di Arduino, o meglio ci sono anche quelli che sono compatibili, ma comunque di quella branca che non ha la compatibilità con le librerie di Arduino, ci saranno sicuramente anche le librerie per quello, perché è diffusissimo come tipo di protocollo, anche perché è stato uno dei primi ad avere quelle caratteristiche di leggerezza e di affidabilità che poi l'hanno portato avanti, oltretutto perché era sviluppato anche comunque in collaborazione con l'IBM, per cui non è venuto fuori il primo pinco palla e ha detto ho un nuovo protocollo, insomma sicuramente ci hanno lavorato addosso. E poi qual è il discorso? Che tornando al fatto della comunicazione con il Raspberry, mi viene in mente per esempio che i componenti per il publish e il subscribe sui topic del broker che potrebbe anche essere il Raspberry stesso, questi componenti ci sono già per esempio in Node-RED. Leggere e scrivere sui topic di MQTT, di un broker MQTT con Node-RED, è di una semplicità estrema, cioè ci vogliono 5 minuti per capire come fare. Lì poi con Node-RED puoi rielaborare il dato e insomma tutto quello che Node-RED può fare per il controllo e per l'attuazione di quello che tu vuoi fare. Quindi sostanzialmente è semplice, molto semplice da utilizzare. Quindi se io volessi cominciare da zero a imparare questo protocollo, mi installo il client sul mio PC, mi installo il client su Arduino e comincio a farli parlare, punto. Guarda, io ho fatto così, per renderla ancora più semplice ho utilizzato un broker in cloud, ce ne saranno parecchi, io ne ho utilizzato uno che si chiama diotyp.co, aspetta, senza la M. diotyp.co. Co, sì. Sembra di dare del casino esatto, a qualcuno, esatto. ma io penso che ci sia una certa volontà nel nome, non so perché, contiene sicuramente IoT, ma poi alla fine il fatto della Y finale qualcosa vorrà dire, e niente, quindi ho utilizzato questo broker e ci ho collegato due cellulari Android, e praticamente a turno li facevo fare il publish e subscribe. Questo è stato il primo esperimento che ho fatto con l'MQTT. Ho visto che era banalissimo, per cui poi sono andato avanti, mi sono installato il Node-RED sul PC, ho comunicato con quel broker lì, dopodiché mi sono installato anche Mosquito e ho lasciato perdere il broker online e ho fatto vari step, ma sempre abbastanza semplice come si può dire, come percorso, come utilizzo. Poi magari me lo dai il link di Mosquito, perché se si cerca su Google si parla solo di zanzare. Ma davvero? sì, sicuramente. Grazie. Va bene. Non cercatelo su Google, perché vengono fuori delle foto bruttissime dei primi piani delle zanzare che stanno pungendo delle persone. Non fatelo. Bene. Il discorso di comunque utilizzare un broker online adesso, comunque, stando un attimo attenti alla sicurezza, torniamo al discorso dei dati eccetera, potrebbe avere un senso nel caso in cui per esempio io volessi che i miei dati venissero letti anche da altri. Mi viene in mente il controllo della temperatura di un locale al lavoro, del CED per esempio, per cui io mi piacerebbe che tutti i miei colleghi fossero al corrente della temperatura che sta al CED prima che succeda il patatrack, insomma. Già fatto presente. Io ce l'ho che si integra con tutto il rack di APC, una cosa mortalmente grossa, pagata decine di migliaia di euro, bla bla bla. Ecco. E lui, quando supera la temperatura, manda un messaggio. Ma ora che tu mi hai detto questa cosa qua, io faccio mettere a budget la follia di $5. To, vai. Sì, ecco. Ma magari me li compro. Anche io compro degli ESP, ci metto sopra il sensore, li piazzo in sala server, li faccio parlare con uno di questi servizi e do l'app ai colleghi. Fantastico. Sì, ma tra l'altro, ecco, ovviamente sul cellulare, io parlo di Android, poi ovviamente ci sarà anche per, ma figurati se non c'è anche per Apple, ci sono vari client per leggere e scrivere sui topic. Quello che a me è venuto più in fretta da utilizzare si chiama MyMQTT, se non mi sbaglio, ed è semplicissimo, ci configuri il broker. Adesso sinceramente non so se si possa configurare anche più broker, non mi ricordo, forse no. Mi raccomando, passami tutti questi link perché comincio a essere molto curioso. Il discorso quale sarebbe, tornando a quello che è l'MQTT standard, altrimenti dovresti tu farti un'app che vada a fare la lettura dei topic sul broker. Cioè, probabilmente ne vale anche la pena se la lettura di quel dato poi deve scatenare, cioè tipo voglio far suonare il telefono ad un certo volume per farmi avvisare che, oppure lì potresti fargli, addirittura ci sarebbe il discorso di far fare qualcosa al telefono, per cui se mi arriva questo dato allora io lo rimando ad altre persone o genero un qualcosa, insomma comunque ci sarebbe da lavorarci ovviamente, ma Tutte cose belle. Bene, bene, da consumarci parecchio, parecchio tempo, insomma. Guarda, il prossimo esperimento che io ho intenzione di fare è quello di mettere un ESP che però faccia, oltre che il publish, anche il subscribe per fare delle cose. Cioè, mi viene in mente che si potrebbe utilizzare lo stesso ESP sia come sensore sia come attuatore. È un'idea per cui insomma ci voglio e perché no, scusa. Sì, ma a parte come potenza di calcolo sicuramente non ci sono problemi, è che devo trovare l'idea giusta per renderla fattibile e non lasciarla sul tavolo come le altre cose. Guarda, tanto è la fine che facciamo tutti, perché fai questo, quello, quell'altro, poi c'è la famiglia, poi c'è quello, e non ce la si fa, finito. Assolutamente. Assolutamente. Bene, bene, bene. Direi che abbiamo affrontato abbastanza a fondo l'MQTT. Possiamo chiedere agli ascoltatori se hanno voglia di farci domande, di imparare di più. Innanzitutto noi metteremo tutti i link che sono convinto che Giuliano mi manderà quando farò le note dell'episodio, così sapete da dove partire. Certo. La cosa bella è che non si deve comprare niente, perché se ascoltate questo podcast e non avete almeno un Raspberry o un Arduino a casa, magari compratevelo, ma non penso che ci siano degli ascoltatori che non ce l'abbiano, essenzialmente. Ma penso di no, anche perché insomma se ci ascoltate è perché siete partiti. Se no se non ce l'avete, tenete il portafogli lontano quando ascoltate questo podcast, perché noi siamo pericolosissimi. E la pericolosità adesso sale, perché la pericolosità sale con le nostre proposte: compra questo perché è tanto figo e tanto nerd, giusto? Minimo. allora diciamo che abbiamo 4-5 oggettini oggi. Parto io, poi chiude Giuliano. Il primo è un oggetto che non esiste. Allora, è un oggetto che io ho puntato a inizio di dicembre. I signori di... aspetta che non mi ricordo più. Ah, di DPI Hat hanno postato su Twitter: vogliamo fare un albero di Natale che si installi perfettamente sul GPIO del Raspberry con tutti i leddini, con la scheda a forma di albero di Natale, voi ve lo saldate, vi fate il codice e lo fate lampeggiare. Ogni RT significa che vi interessa, così sappiamo quanti produrne. Oh, siamo arrivati, adesso è il 10 febbraio, il dispositivo è, attenzione, questa scheda è attualmente in produzione. Io non penso che un'azienda di elettronica potesse fare un fail così grosso. Lo farò per l'anno prossimo, dai. Guarda, è una roba, cioè tu fai una roba del genere che è veramente carina, la proponi, la gente si incista. Oh, ma ti giuro, facevo il refresh su quella pagina ogni ora per evitare che sparissero tutti. Aspetta, il 20 di dicembre chissà quando lo mandano, il 21, il 22, il 26 di dicembre era ancora in produzione. Questo è un fail colossale. Bene, no, ma aspetta, allora, questo è perché volevano incentivare le persone a produrselo da sé. No. Non esiste. Secondo me c'è un vecchio detto che è sempre valido: il nerd medio è sfigato e non sa organizzarsi. Che lo declino anche su di me, eh? Sì. Cioè, noi sappiamo mettere le mani sui dispositivi, sappiamo saldare, sappiamo programmare di qua di là, ma non ci sappiamo organizzare. Cioè, se i nerd sapessero organizzarsi, allora il mondo sarebbe diverso, punto. E tieni conto che Google è fatta da nerd e l'usabilità di Google è una merda. Apple secondo me non è fatta da nerd, è fatta da gente che lavora ma non sono nerd, ed Apple ha un'usabilità spaziale. Le cose che sono vendute da Google o prodotte da Google che sono usabili sono cose che Google ha acquistato da terze parti. Vorrei dire ciao al signor Google, siamo qui. Vorrei farvi vedere l'interfaccia di amministrazione della G Suite per le aziende e poi tutti quanti mi darete ragione, perché è un'interfaccia di amministrazione di un sistema aziendale gestito dai sistemi informativi. Tipicamente sono nerd quelli che lavorano nei sistemi informativi, lo sanno tutti, guardatevi The IT Crowd su Netflix. E non riesco a trovare le cose. Caspita, guarda. È fatta talmente male che non riesco a trovare le cose. Ecco, eppure chiuso il pacchettino del fail. Sempre su, no, forse il secondo è su PIAT, sì, che è un altro sito. Stavi dicendo qualche cosa, scusami. No, è che mi viene in mente che mi sono scontrato con delle robe questa settimana che è altro che Google G Suite. Ah sì? Peggio? un programma per il controllo del flusso dei documenti. Guarda. Ah, ok. No, non è possibile. Allora, torniamo su The PIAT. Allora, The PIAT è quello del fail di prima, dell'albero di Natale. Ha fatto queste cose che si chiamano hat, cappelli. Quindi, il sito è PIHUT. I prodotti che si mettono sopra ai Raspberry li chiamano hat e sono un po' lo scimmiottamento degli shield di Arduino. Sì, certo. Ecco, c'è questo microdot PIAT che è una schedina grande come il Raspberry Pi 0, si monta sopra il Raspberry Pi 0 e ha 6 piccoli display da tot punti, non sono a 7 segmenti, sono a tanti punti, quindi puoi fare qualunque carattere. Ah, sì. Verdi o rossi, è bellissimo. Mi ricordano delle robe dei primi anni 80, forse, delle calcolatrici, una cosa del genere. Una roba simile, ma sono veramente belli. Sono delle matrici di LED praticamente. Sì, giusto. E c'è la libreria per comandarli. C'è o quello con i caratteri verdi o quello con i caratteri rossi, oppure c'è quello in kit di montaggio. Quindi tu ti prendi solo lo shield e ti compri poi i caratteri singoli. Ma molto molto molto bellino. Non costa poco, perché non è ai prezzi abbordabili della Cina, perché fa 22 pound e piayat è anche un po' caro nella spedizione, però è veramente carino. Il mio portafoglio si rifiuta. Ok, perfetto. Mi viene poi, in mente che per usare questo si potrebbe usare per fare, sai, ma forse consuma un po' troppa batteria, per i badge, quelli, sai, che si fanno per le fiere dei nerd, insomma. Allora, per i badge esiste l'AT, aspetta, che lo cerco in tempo reale, perché, attenzione, si chiama Papyrus. Mo ti mando il link in chat. Costa caro perché costa 35 pound, ma secondo me tu lo trovi anche dai cinesi, perché io ti conosco benissimo. Allora, Papyrus è un display, vabbè, per Raspberry, fatto con inchiostro elettronico. Il problema sostanziale è che è il display e ink che costa ancora tanto anche dagli nostri amici, cioè non c'è verso. Io ho cercato diverse cose per poterlo avere a prezzi, insomma, un po' decenti, ma è sempre dura, non c'è niente da fare. Io ho contattato un mio amico che lavora in un posto dove fanno le etichette elettroniche, hai presente quelle che si mettono negli scaffali? Che si mettono nei supermercati, costano una follia. Esatto, gli ho proposto di chiedere se fossero interessati a sviluppare un qualcosa a prezzi, insomma, non esagerati, da interfacciare sia con l'ESP che con Arduino, insomma una specie di non una shield, perché altrimenti poi limiti, ma comunque un display con controller I2C, in modo da poterci poi attaccare qualunque attaccare cosa. Sì, esatto. Tornando al discorso, il problema sta sempre nel fatto che se non sei scemo come noi per queste cose, magari ti sembra che non ci sia mercato. Secondo me ci sarebbe moltissimo mercato per questo oggetto qua. Ho capito, sì, in effetti costa, perché gli ink costano molto meno i display della stessa dimensione nelle CD, anche se sono touch. Sì, assolutamente, ma il display LCD da 3 pollici sono un po' aumentati, devo dire la verità, ma io ne ho comprati almeno uno un pochino così su una Shield $5, mentre invece ho comprato un altro che quello ha un controller un pochino più standard, ci sono svariate librerie per programmarlo, che è quello che ho usato per fare quei gadget tipo la stazione meteorologica a colori o il tracciatore degli aerei che passano sopra la tua testa, questi gadget che poi provo e poi metto da parte, ma l'avevo pagato tipo $6, una cosa del genere, 6-7 dollari. Sì, quelli sono molto più abbordabili. E poi chiudo con una cosa gratis, perché è una libreria che ho trovato su internet. Io volevo farmi il mio sistema di gestione casa, comunica con Telegram, forse ve l'avevo già detto tipo 742 volte, ma non importa. Adesso tutte le mattine alle 7:30 mi fornisce una specie di piccolo report. Questo piccolo report comprende la data, cioè, no, scusa, la data, l'ora di quando sorge e quando tramonta il sole a casa. E ho trovato questa libreria che si chiama EPHEM, EPHEM, per Python, che fa l'impossibile. Praticamente tu gli dai le coordinate tue di dove vuoi che la cosa sia calcolata, e lui ti calcola le effemeridi di qualunque pianeta. Quindi vuoi sapere quando sorge la luna e quando tramonta, te lo dice. Vuoi sapere quando sarà piena, quando sarà nuova, te lo dice. Lo vuoi sapere del sole, ed è quello che uso io, di qualunque pianeta, anche delle stelle più famose, una roba bestiale. con 4 righe di codice, 4. Ah no, fossero state 3, ma 4 è troppo, vero? È troppo. E devo essere sincero, allora è un po' ostica, a cominciare, le opzioni sono davvero davvero tante, bisogna prenderci un attimo la mano, però è veramente carina. Interessante anche per i fotografi, dici? Sì, cavoli, sapere esattamente, guarda, sapere quando tramonta il sole eccetera, o sapere quando c'è la luna piena, soprattutto se vuoi andare a fare foto notturne alle stelle, cose del genere, potrebbe essere interessante. Sì, tieni ci comunque sono conto mille... che qualunque app sì, di base dei telefonini ce l'hanno, però a me tornava comodo perché se a me arriva il messaggio push io ce l'ho blip e lo leggo. Se io devo controllare qualche cosa lo faccio per i primi 4 giorni per capire se funziona e poi me lo dimentico. No, ma su questo non ci piove. Io, giusto per divagare anche su queste cose qua, ho un'app sul telefono che oltre a dirmi quando tramonta il sole, a che ora c'è l'alba eccetera, ma ha anche un sistema di realtà aumentata per cui mi dice anche esattamente dove, cioè qual è il percorso del sole rispetto alla posizione in cui mi trovo, per cui se voglio sapere se ad una determinata ora il sole si troverà in mezzo a quella via in modo da poter fare la foto contro luce, posso saperlo. Ah, bene bene bene, è interessante, mettila nelle note dell'episodio, così almeno per chi è interessato. C'è solo per Android o c'è anche per iOS? No, ci sarà anche per iOS sicuramente, anche perché io l'ho copiata da un altro fotografo un pochino più famoso di me, ma non molto. l'avevo vista su un servizio su Sky. Va bene, bene bene, allora mi sa che adesso tocca a te, procedi pure. Va bene, allora, primo gadgettino interessante è una cosa che ho anche pubblicato sul canale Telegram, che è questo campanello smart. Allora, cosa fa questo campanello? Allora, questo campanello ha una telecamera, ha un sensore di movimento e ovviamente il pulsante per il campanello. Quindi le feature di questo campanello sono che Moment è un campanello IoT ovviamente, quindi sarà basato su ESP o quello che adesso sinceramente se sia Arduino ESP, ma non credo che faccia molta differenza in questo caso qua, anche se conoscendomi sarà per ESP perché io ho un attimino una predisposizione per l'ESP, quindi sicuramente sarà così. Ma quindi... ESP ce l'hai nel sangue, ti girano le schedine ESP? guarda, quando mi girano le schedine è un casino. lo so. Quindi allora che cosa dunque, quindi possiamo essere avvisati quando qualcuno suona la porta, possiamo essere avvisati se qualcuno passa davanti alla nostra porta, nel contempo possiamo catturare un'immagine di chi suona il campanello o di chi passa davanti alla nostra porta e farcela mandare ovviamente via MQTT, non lo so. Qualunque messaggino. Pensa che figo se installi un programmino di riconoscimento facciale e Telegram ti dice: ehi, guarda che c'è Mario che ti sta suonando il campanello. E tu pensi che non ansia, si possa fare? Ansia, eh? Sì, in effetti potrebbe essere. Tu non sei a casa, chiami Mario e dici: senti Mario, so che sei davanti alla porta di casa mia, ma io non ci sono, secondo me Mario non si fa più vedere mai, mai più. Lo fai spaventare talmente che è difficile che si faccia rivedere. Assolutamente. Beh, comunque l'ho trovato interessante anche perché faceva un po' il paio con il progetto di cui abbiamo parlato l'altra volta del citofono da aprire via cellulare, quindi sì, che insomma. Sulla chat c'è stata tutta una discussione che non pensavano fosse un progetto degno di attenzione. È una figata pazzesca. Ah, cioè sì, io continuo a pensare che se casa fosse mia, e quindi il citofono pure, io mi ci metterei dentro a, a cercare di farlo, sai? Ma sì, ma guarda, io l'ho fatto però non per aprire il portone, ma per sapere quando qualcuno suonava al citofono di casa, perché lo studio è tutto da un'altra parte e quindi non avevo la possibilità di sentire il citofono. Vedi, quando il corriere arriva e ti vuol consegnare il pacco di Amazon e se lo riporta sì, via sì, sì. E ti viene un po' un certo tipo di nervo, ti girano le schedine, ecco, facciamo ecco, così. Esatto. Bene, insomma, è una cosettina interessante, con tutti i progetti anche per poterlo realizzare, compresi la scocca da realizzare con la stampante in 3D, e, insomma, mi è piaciuto, l'idea mi è piaciuta parecchio. Chissà, magari ce lo facciamo un giorno uno di quegli anni in cui non andremo in pensione, perché intanto Ho guardato l'Inps, ho perso 2 anni di vita guardando l'anno e poi ho detto, ma figurati, non succederà mai. Esatto, no, infatti io non ci penso neanche. Invece, visti i tuoi ultimi problemini con le password... Madonna, arrivi in tempo reale proprio, C'è questo interessantissimo progettino di un password keeper da portarsi dietro, basato credo su ESP32 se non mi ricordo male, e praticamente lì dentro ci butti le tue password, purtroppo non l'ho approfondito molto perché l'ho trovato giusto stamattina, ma ho detto caspita, questo devo subito dirlo a Francesco dopo che ho visto il post su Facebook, per cui mi è venuta in mente, però se non ho capito male, intanto interagisce con il cellulare via USB e quindi c'è la possibilità, credo, di addirittura immettere la password tramite direttamente, cioè senza scriverla, oppure di buttare dentro le password tramite app, in modo che ovviamente in qualche modo ce le devi scrivere dentro questo aggeggio. Non ho capito bene se è un Kickstarter che è già stato fatto, vediamo un attimino, oppure se lo devono ancora mettere su. No, allora c'è la pagina su Kickstarter, però non capisco se è già stato finanziato o no. Sì, forse bellissimo, che si chiama Multipass, fantastico. Multi. sì. Però l'ho trovato molto interessante. Non ho approfondito particolarmente, però mi riservo di farlo, insomma. È anche carina la presentazione. Diciamo che non è proprio il massimo della comodità nell'usabilità. Sì, certo, questo no, però... Cioè, è proprio carino, ma LastPass funziona meglio. Ah, beh, certo, questo è sicuro. Ma tutto sommato... È morto, Giuliano? Anche... Pronto? Pronto, Giuliano? Pronto, mi senti? Io ci sono. Ok, io ti sento? Mi senti? Sì, ok. Okay. Tra l'altro ha anche è già stato finanziato, perché dice che lo spedivano a gennaio 2017, quindi... Chissà se è arrivato. È arrivato. Ah, si potrebbe andare a vedere i commenti, vediamo un po'. Sì, è arrivata. A qualcuno è arrivato, perlomeno, perché ci sono i cosi per delle prime impressioni, quindi... A qualcuno è arrivato, tra l'altro costa 50, non so a quanto sia il franco svizzero, ma dice che costa 50 franchi svizzeri per 2 dispositivi. Se fosse alla parità con l'euro non costa neanche esageratamente così tanto, insomma. Beh, non è una cifra folle. Infatti. Bene. Allora, direi che abbiamo affrontato tutti gli argomenti. Siamo a 1:23 e si può anche passare alla chiusura e alla nostra pubblicità solita, giusto? Certo, assolutamente. Allora, ci trovate su Twitter, GCookiesCast. Ci potete scrivere via mail, gcookiespodcast@gmail.com. Ci trovate sul nostro sito gcookies.github.io. Ci trovate su Facebook, GCookiesCast, ci trovate su Google Plus, che non so se ancora qualcuno lo usa. Ci trovate su qualunque piattaforma possibile di podcasting, perché Mario ci ha iscritti dappertutto, quindi su iTunes, su Stitcher, su Player.fm, su Spreaker, sui podcast di Google. Se usate uno di questi sistemi, stelline, stelline, stelline e recensioni. Perché ve lo chiediamo? Perché più c'è attività sull'account, cioè sul podcast, su questi in questi posti, più il podcast sale nelle classifiche e viene conosciuto. Ovviamente, se siete nerd, conoscete gente nerd che non ascolta G-Cookies, dite loro di ascoltare G-Cookies, giusto? Ma mi sembra il minimo. Perfetto. Poi le discussioni sui singoli post li trovate sulla nostra pagina di GitHub. Abbiamo aperto un forum, e quindi nel forum si può interagire con noi per chiedere informazioni in modo pubblico. C'è anche un canale Telegram abbastanza attivo, certe volte mi distraggo per un giorno e il numero di notifiche è 542. E comunque siamo in una ventina, una ventina al momento. Ho perso il conto. Se volete iscrivervi, parliamo ovviamente di cose di cui parliamo nel podcast, quindi schedine, schede più grandi, roba assolutamente per nerd, da nerd, eccetera. Se comprate su Amazon, dai nostri link che trovate nelle pagine del blog, una piccola percentuale finisce nelle nostre casse e noi possiamo acquistare oppure fare donazioni dei servizi gratuiti che usiamo. Per esempio, ogni anno noi doniamo un po' al software che usiamo per il montaggio, doniamo all'hosting che ci tiene i file, perché secondo noi è una cosa carina, cioè è gratis, ma visto che funzioni, mi piaci, vale la pena che tu abbia dei miei soldi. Mi sembra giusto. Allora, se passate da Amazon, a noi arriva una piccola percentuale. Abbiamo scoperto che se comprate dell'abbigliamento o cose simili, la percentuale è più alta, quindi date i nostri link alle vostre mogli. Dite loro, entra su Amazon, ignora che ci sia la scheda di un Raspberry, cerca le scarpe e comprati le scarpe là. Scarpe, e noi siamo borse, contentissimi, perché Amazon è contenta di questa cosa. Non ho capito perché sull'elettronica la percentuale è irrisoria, sulle borse e sulle scarpe è altissima. Ma perché probabilmente sulle borse e sulle scarpe ci si guadagna molto molto di più. C'hanno margini molto molto più. Penso di sì. Ovviamente la nostra sigla è anche lei Creative Commons, presa da Giamendo. Magari il prossimo anno doniamo anche a loro, se comprate abbastanza su Amazon. E vi ringraziamo tanto per l'ascolto. Se vi piace la piattaforma podcast, vi ricordiamo di diffonderla. Se vi piace la tecnologia, potete anche ascoltare il mio podcast, mi faccio autopubblicità, Pillole di Bit, dove ogni due settimane tiro fuori una puntata lunghissima, mediamente 10 minuti. Sì, noiosissima. Cui parlo di un argomento. Noiosissima, troppo tempo, vai Franci. Comunque grazie per l'ottima pubblicità. Benissimo. Direi che è tutto, non penso di essermi dimenticato niente. Non credo. Molto bene, allora ci risentiamo presto, un saluto da Francesco da Torino. E un saluto dalla freddissima Sardegna, qua siamo quasi quasi sotto zero. Quasi. Ma non ci crede nessuno, c'è sempre il mare. Certo, infatti. alla prossima, ciao ciao. Ciao a tutti.